Letture di Radio 24. Vent'anni fa, un gruppo di ricercatori dell'Università di Parma, guidato da Giacomo Rizzolati, scopriva l'esistenza dei neuroni specchio, aree del nostro cervello che riflettono nelle nostre azioni quello che stanno pensando e compiendo gli altri. In un articolo pubblicato oggi sul Domenicale del Sole 24 Ore, Rizzolati presenta i risultati di una nuova ricerca che assegna un ruolo predominante alla percezione delle attività motorie. Era l'inverno del 1991 quando mandai una nota a Nature nella quale descrivevo le proprietà funzionali di un sorprendente tipo di neuroni che Giuseppe Di Pellegrino, Luciano Fadiga, Leonardo Fogassi, Vittorio Gallese ed io stesso avevamo scoperto nella corteccia premotoria di scimmie. La caratteristica fondamentale di questi neuroni era quella di diventare attivi, sia quando la scimmia compiva un determinato atto motorio, ad esempio afferrare un oggetto, sia quando osservava un altro individuo, scimmia o uomo, compiere lo stesso atto. Questi neuroni sono ora noti come neuroni specchio. Nature non accettò il nostro lavoro per il suo lack of general interest, mancanza di interesse generale, e suggerì la pubblicazione in una rivista specializzata. Così avvenne. Nonostante il loro lack of general interest, i neuroni specchio suscitarono, fin dalla loro prima descrizione, un grande interesse, non solo tra i neuroscienziati, ma anche tra persone che lavorano in campi lontani dalle neuroscienze, filosofi, sociologi, etologi, artisti e perfino gente di teatro. Perché? La ragione è semplice. La scoperta indicava una nuova maniera di capire gli altri. Immaginate la scena seguente. Entrate in un bar. La vostra attenzione si concentra su una persona che afferra un boccale di birra. Voi capite immediatamente che cosa questa persona sta facendo e, a seconda di come afferra il boccale, capite subito quali siano le sue intenzioni. Ad esempio, capite se vuole bere la birra o se ha preso il boccale per darlo ad un amico. Come fate? Una maniera possibile è mediante un processo logico-inferenziale. Ragionate su ciò che vedete e infine arrivate a una conclusione. Agite come degli Sherlock Holmes. Un'altra maniera possibile è quella di capire gli altri mettendosi nei loro panni. È ancora un processo cognitivo, ma meno astratto. Questi atteggiamenti cognitivi sono certamente importanti in certe situazioni, ma non è quello che facciamo nella vita di tutti i giorni. Quando osserviamo un'azione altrui, questa intrude nel nostro sistema motorio automaticamente e noi capiamo cosa fa l'altro senza alcuno sforzo cognitivo, perché dentro di noi si attiva uno schema motorio simile a quello di chi fa l'azione. I neuroni specchio sono il meccanismo che permette questa comprensione. La scoperta dei neuroni specchio è stata fatta nella scimmia. Successivamente, mediante varie tecniche per lo più non invasive, elettroencefalografia, tecniche di neuroimmagini, stimolazione magnetica transcranica, eccetera, si è visto che le informazioni sensoriali, visive, acustiche o addirittura olfattive, che caratterizzano un'azione, si trasformano nello schema di quell'azione anche nell'uomo. L'uomo possiede quindi il meccanismo specchio. Sia nella scimmia sia nell'uomo, i neuroni specchio sono presenti non solo nelle aree premotorie, ma anche in altre aree, tra cui quelle che controllano le emozioni. Non esiste quindi solo un sistema di neuroni specchio limitato all'area premotoria e alle aree a questa collegata. Esiste un meccanismo generale di trasformazione sensori-motoria. Quando il meccanismo specchio si attiva nelle aree emozionali, vivremo l'emozione degli altri, mentre quando si attiva in circuiti che controllano le azioni cosiddette fredde, non emozionali, capiremo queste azioni e le intenzioni di chi le compie. Il primo e fondamentale motivo dell'esistenza del meccanismo specchio è quindi quello di mettere in contatto il mondo esterno con le nostre esperienze. È un meccanismo che ci permette di capire gli altri dall'interno. Qui bisogna chiarire però un punto che ha spesso generato confusione. Si è spesso detto che l'attivazione dei neuroni specchio permette, quasi per magia, di capire gli altri. Non è così. Non c'è niente di magico nella scarica di neuroni specchio. Molto più semplicemente, quando i neuroni specchio si attivano, determinano l'eccitazione di neuroni in altre aree motorie corticali, inclusi i neuroni cortico-spinali e neuroni del sistema extrapiramidale. Questo complesso schema motorio attivato dall'esterno è simile a quello che si attiva quando volontariamente decidiamo di compiere un'azione. Sappiamo quindi, senza alcun intervento inferenziale, cosa l'altro sta facendo e intende fare. La stessa cosa vale per i sistemi emozionali. Un recente lavoro di Caruana e collaboratori ha dimostrato che la stimolazione dell'insula nella scimmia determina, a seconda del luogo di stimolazione, diversi comportamenti emotivi. Caruana e collaboratori hanno quindi iniettato dei traccianti nelle zone stimolate e hanno ricostruito i circuiti anatomici delle varie zone stimolate. Si è visto che ognuno di questi include specifici centri motori e vegetativi. Questi circuiti emozionali sono alla base delle emozioni causate da stimoli naturali. Esempio, odore sgradevole uguale disgustoso. Quando vediamo il disgusto espresso nella faccia di una persona, grazie ai neuroni specchio si attivano gli stessi circuiti motori e vegetativi che si attivano in risposta a stimoli naturali e noi abbiamo la stessa emozione che prova l'altro. Recentemente abbiamo identificato nella scimmia i circuiti che portano alla formazione dei neuroni specchio. I risultati hanno mostrato che il circuito specchio per il movimento della mano consta di due branche, una che parte dal labbro superiore dell'area STS, un'area visiva di ordine superiore, e fornisce informazioni generali sul movimento osservato, l'altra che parte dal labbro inferiore della stessa area e dà informazioni precise sui rapporti mano-oggetto. Entrambi i circuiti sono a doppio senso. Non vanno, in altre parole, solo dalla periferia visiva verso i centri motori, ma anche dai centri motori verso le aree visive. Questa osservazione ci permette di spiegare un esperimento che abbiamo condotto assieme a ricercatori dell'Università di Tubinga. Abbiamo esaminato se i neuroni dell'area premotoria di scimmia codificassero solo il fatto che l'individuo osservato compiva un'azione o distinguessero azioni osservate da diversi punti di vista, visione di lato, visione egocentrica, eccetera. I risultati hanno mostrato che un'alta percentuale di neuroni, tutti motori, codificava gli aspetti visivi dell'azione. È stato un risultato inatteso. Bisogna tenere presente, infatti, che i neuroni funzionano come una rivoltella. Quando il grilletto è stato premuto, cioè l'intensità dell'attivazione è sufficiente, la pallottola, ossia il potenziale d'azione, parte. Una volta che la pallottola è partita, l'informazione su chi ha premuto il grilletto è persa. Allora, a cosa serve avere neuroni motori sensibili a un orientamento visivo specifico? L'ipotesi che abbiamo avanzato è che i neuroni che codificano un determinato orientamento sono legati mediante connessioni top-down con neuroni delle aree visive, ad esempio con i neuroni STS. Quindi, quando un neurone specchio spara, avvengono due processi. Il primo attiva i centri motori e permette la comprensione del significato generale dell'azione. L'altro determina l'attivazione dei neuroni posti nelle aree visive, mettendo in luce i dettagli dell'azione osservata. Spinti da queste considerazioni, abbiamo esaminato la dinamica delle attivazioni corticali nell'uomo durante l'osservazione di azioni, usando la registrazione elettroencefalografica ad alta densità. Il risultato più importante è stato che, dopo un'iniziale attivazione delle aree visive e motorie, ricompare un'eccitazione delle aree visive. Interferire con questa onda compromette l'accuratezza con cui il soggetto riconosce l'azione. Questi dati suggeriscono che la percezione degli atti motori altrui si svolge in tre stadi: un'elaborazione preconscia degli stimoli visivi, l'attivazione mediante il meccanismo mirror del sistema motorio dell'individuo, questo è il momento in cui il soggetto diventa cosciente di ciò che vede, ritorno alle aree visive per acquisire coscienza dei dettagli degli stimoli. È ovvio che questa descrizione di come avviene la percezione degli atti motori altrui ribalta la visione classica della percezione, che assegnava un ruolo predominante alle aree sensoriali e associative, mentre negava ogni importanza nella percezione alle attivazioni motorie. Avete ascoltato la lettura di un articolo di Giacomo Rizzolati, dall'inserto Domenica allegato al Sole 24 Ore in edicola oggi.